24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 16 minuti e 45 secondi inizia la terza parte di 24 Mattino di questo lunedì 8 giugno. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Ciao Maria, eccoci. Buongiorno, buongiorno Simone, buona settimana a te, buona settimana a chi ci ascolta. E stamattina, prima di darvi proprio un flash su qualche giornale europeo, invece vorrei commentare il commento di Pier Giorgio Odifredi, noto matematico e autore anche di articoli, per esempio, sulla Stampa. Stamattina, proprio sulla Stampa, ironizza sugli scienziati da TV e cita naturalmente i Burioni, Leggismondi, Ilaria Capua, che stanno costantemente in TV, pubblicano libri, si fanno fotografare col cappello sulle copertine. E Odifredi scrive: ogni paese ha i media e gli opinionisti che si meritano, citando Anthony Fauci, il grande scienziato che si è opposto anche pubblicamente a Trump, e dice: ma anche noi abbiamo il nostro Anthony Fauci, Alberto Mantovani, che nelle classifiche mondiali, scrive Odifredi, è praticamente allo stesso livello di Fauci, ma in TV lo abbiamo visto poco, a differenza di tutti gli altri che ho già citato. E dice Odifredi: a rimetterci non è stato solo il pubblico che si è visto ammanire le opinioni più diverse e un protagonismo eccessivo, a rimetterci è stata la scienza stessa. Ma tu ce l'hai con questa cosa? Tu ce l'hai con questa cosa? No, i virologi in TV, ti danno fastidio, chissà come mai. Guarda, io sto citando Odifredi, danno fastidio a te. Non è la prima volta che mi danno fastidio, allora volta non che posso ne parli. Che essere d'accordo con te. Non è la prima volta che ne parli. No, ma penso che tu ce l'abbia con Odifredi. Ce l'hai con Odifredi? No, assolutamente Simone, no, anzi. Ti sta antipatico Odifredi? Ma figuriamoci. Senti, vuoi darci un quadretto rapido di Guarda, giornali europei? Sì, sono due cose che una mi dispiace, ed è l'attacco che Le Monde fa alla regione Lombardia. Lo mette in prima pagina e la definisce il disastro lombardo. Possiamo avere tutte le opinioni che vogliamo su come è andata la sanità, però insomma, siccome certamente anche i francesi hanno avuto i guai loro sulla sanità, insomma, mettere proprio la Lombardia in prima pagina su Le Monde è una cosa che, quando uno la vede, un po' ci resta male. Tuttavia va citato. E poi un'altra cosa, le tre pagine tre che Le Figaro dedica alla scuola del futuro, perché secondo appunto il quotidiano francese, il ministro dell'istruzione e tutta una task force, non la chiama così per carità, stanno pensando a quella che sarà la scuola del futuro, e c'è un grande dibattito perché dopo il Covid-19 in Francia stanno pensando di non tornare più alle classi di un tempo, ma di fare quella che chiamano la classe inversée, cioè le lezioni il professore, l'insegnante le spiega online e i ragazzi stanno a casa. Poi le interrogazioni si fanno a scuola. Non ho avuto il tempo di leggere le tre pagine tre che Le Figaro dedica a tutto questo, ma insomma sono un po' perplessa su questo metodo, però pare che ci stiano pensando. Beh, vedremo, tante ne girano sulla scuola, a partire dai divisori in plexiglass. Avrai visto le foto, Maria, vabbè, insomma, lasciamo perdere. Sì, mi piacerebbe che ci fosse una visione unica e invece non tante idee, una da una parte, una dall'altra. Vabbè, vedremo. Allora, di cosa ci occupiamo questa mattina? Ci occupiamo di sanità, ma lo facciamo soprattutto per parlare delle conseguenze di Covid-19 su tutto il resto. Se prendete il dato pubblicato da uno studio di Nomisma nei giorni scorsi, ci sono 410.000 ricoveri per interventi chirurgici da riprogrammare, senza considerare le liste d'attesa che si allungano, le visite ambulatoriali che ritardano e il fatto che tutto questo dovrà avvenire in una condizione organizzativa completamente diversa. bassa, il rischio è di un dimezzamento delle visite possibile in ogni singola giornata. E questo chiaramente è un problema per tutti noi al di fuori di Covid. Di questo parliamo stamattina con Angelo Tanese, direttore della ASL Roma 1. Buongiorno Tanese, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie. Che ci porterà un po' l'esempio e ci racconterà quello che stanno facendo loro e quello che, a sua opinione, bisognerà fare da qualcuno che ha le mani, no, nell'organizzazione di tutto questo, è Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanza Attiva. Gaudioso, buongiorno e benvenuto, eccoci. Buongiorno a lei, buongiorno a voi. Maria, prego. Sì, vorrei cominciare con Angelo Tanese perché come direttore della ASL Roma 1 ha un po' il quadro dei più grandi ospedali della capitale. Le chiedo intanto com'è la situazione dei pazienti in attesa di interventi chirurgici e se prevedete di tornare, diciamo, a un regime, un ritmo normale di interventi e di cure. E poi se ci fa capire che cosa è successo nella clinica San Raffaele perché il virus è entrato in clinica proprio quando ormai la Regione Lazio cominciava a pensare che fosse finita l'emergenza. Nel Lazio effettivamente siete stati colpiti meno che altrove. Sì, beh, dunque, sulla prima domanda, gli interventi chirurgici, ovviamente quelli di classe A, cioè quelli urgenti, noi non li abbiamo mai interrotti, no? Ovviamente durante questi mesi. Quindi l'attività chirurgica, quella che viene chiamata in elezione, cioè quella programmata invece noi in particolare dal 7 marzo, ma insomma grosso modo dalla prima metà di marzo è stata sospesa in tutte le strutture, quindi è chiaro che adesso si è accumulata anche una lista d'attesa, questo non è soltanto per le prestazioni chirurgiche, ma può valere anche per la specialistica ambulatoriale, sempre parliamo di quella non urgente, non quella diciamo non indifferibile, quella indifferibile, quindi adesso abbiamo tutte le aziende definito un piano progressivo di recupero di queste attività, sia con una diversa organizzazione del lavoro, quindi ampliando gli orari, diversificando le sedi, in alcuni casi anche con collaborazioni tra strutture pubbliche o tra strutture pubbliche e private. Quindi è chiaro che è un problema essenzialmente di organizzazione, ma anche di ricontattare le singole persone, perché sa, diciamo, a volte anche molte prestazioni diciamo, o sono rinunciate o sono inappropriate oppure possono essere riprogrammate. Quindi si tratta di andare a vedere caso per caso e dare certezza alle persone che il servizio sanitario... Tanese, ci dà una dimensione, per darci l'idea, ci dà una dimensione di quanto arretrato, chiamiamolo così, da smaltire avete, sì, voi per la vostra, allora, ASL? Nella nostra azienda noi abbiamo circa 80.000 prestazioni di specialistica ambulatoriale non effettuate nei 3 mesi per effetto appunto della chiusura delle attività. Abbiamo poi circa 17.500 prestazioni già prenotate per giugno e diciamo quindi complessivamente quasi 100.000 prestazioni. Noi, ripeto, stiamo contattando singolarmente le persone, peraltro su alcune branche noi abbiamo già mantenuto durante questi mesi dei contatti telefonici, penso alla cardiologia, alla pneumologia, alla diabetologia, cioè tutti quei casi in cui le persone erano prese in carico, noi non abbiamo smesso, ecco, di seguirle a domicilio. Quindi per certi versi anche noi abbiamo sperimentato modalità differenti che ci consentono, ecco, parafrasando un po', prima se parlavate della scuola del futuro, io penso che noi dobbiamo pensare a una sanità del futuro in questo momento e trarre degli insegnamenti da questa esperienza, perché su molte cose possiamo fare meglio, sicuramente diversamente. Eravamo in sospeso su questo nuovo cluster di infezioni. Sì, cluster San Raffaele. Peter, diciamo, sento. Mi sente? Posso sì, parlare? La sentiamo. Sì, è una struttura che è sul territorio della ASL Roma 3, però ovviamente siamo stati coinvolti tutti quanti noi, perché è effettivamente, come avete detto bene, sembra un po' di tornare indietro di qualche settimana, quando avevamo alcuni casi all'interno di queste comunità RSA dove evidentemente diciamo è più facile che ci sia il contagio, è scoppiata in maniera un po' imprevista effettivamente, perché siamo in una situazione di curva epidemiologica ormai diciamo fortemente ridotta, noi su un territorio di oltre 1 milione di abitanti, ad esempio, oggi non abbiamo nuovi casi, mentre abbiamo, ecco, nel nostro caso, per esempio, 8 dei 35 della San Raffaele, perché lì effettivamente, adesso le valutazioni sono un po' in corso, però diciamo ci sono sia degli operatori, sia degli utenti, dei pazienti ricoverati positivi, ed è evidente che c'è stato un contagio interno. Noi abbiamo in queste settimane, già da aprile, gestito ad esempio controlli e verifiche su oltre 90 strutture del nostro territorio. Credo che il Lazio, da questo punto di vista, non sia stato soltanto fortunato, questo posso dirlo. Credo che abbia messo in campo delle azioni sia in maniera preventiva e poi anche di verifica e di gestione dei casi, diciamo, critici, molto tempestive. E questo sicuramente, diciamo, è difficile valutarlo in termini di quello che sarebbe successo se non l'avessimo fatto, ma io sono convinto che sia stata una risposta tempestiva e efficace. Gaudioso, che cosa bisogna fare per recuperare l'arretrato, secondo lei? Beh, bisogna fare un piano straordinario da questo punto di vista, perché siamo più o meno, ovviamente per aspetti diversi, nello stesso stato di emergenza in cui stavamo nelle scorse settimane. In questo caso legato a prestazioni non fatte, perché ricordo a me stesso che non è che tornare a come stavamo prima ci rende migliori, perché il nostro paese già è in una condizione di profonde disuguaglianze, perché è vero che già prima c'erano differenze per liste d'attesa che per una mammografia potevano essere di 20 giorni in alcune aree del paese, di 200 in altre. Quindi alle disuguaglianze che c'erano prima si aggiunge anche questa situazione che si è creata in questi mesi. Lo dico perché è vero che c'è un problema di assolutamente di risorse umane, è vero che c'è in parte un problema di risorse economiche, ma mi permette di dire che c'è anche un problema strutturale, anche di modelli organizzativi. Nelle scorse settimane si è parlato molte volte dei problemi della Lombardia, a volte a ragione, ma ricordo a me stesso che il 14 aprile la Lombardia ha ripreso, in una situazione già molto difficile, a fare i vaccini. Beh, diciamo, ci sono regioni del nostro paese che in pieno Covid e con problemi molto minori rispetto a quelle del nord hanno bloccato vaccini e screening oncologici. Fare uno screening oncologico in ritardo e individuare tardi un tumore può essere la differenza tra la vita e la morte per le persone. Quindi se c'è la necessità di intervenire in questa fase, c'è bisogno di farlo con un piano straordinario che recuperi tutto ciò che non è stato fatto e che ci permette di entrare anche in un modello completamente diverso, ad esempio l'utilizzo delle tecnologie, ad esempio la possibilità di allargare i tempi per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni del servizio pubblico, allungando i tempi nel corso della giornata, utilizzando i weekend. Diciamo, se non ripensiamo il modello centrandolo sui bisogni delle persone e tentando di adattarli, sarà difficile recuperare questo gap. Grande tema. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, anche audio, le vostre voci, l'800-24-00-24 per intervenire in diretta con Antonio Gaudioso, che secondo me poneva un tema fondamentale. Io in queste ore ho visto tanti pezzi sul piano che ha intenzione di presentare il ministro Speranza, un piano da 20 miliardi, forse finanziato con il MES, nel quale però il tema della tecnologia praticamente non entro, non l'ho visto citare. Ho visto parlare di assunzioni di personale, di allungamento dei tempi, certo, l'infermiere sul territorio, e però questo tema dell'intervento della tecnologia ad aiutarci a snellire, a rendere tutto più rapido, a fare diagnosi da casa, e beh, questo ancora non si è visto. Pausa. Mattino. La regione Lombardia, ci racconta Cinzia da Milano, ha annullato a mia madre, 93 anni, in cura da anni, la visita della diabetologa senza dare un nuovo appuntamento. Abbiamo ascoltatori che ci scrivono questo, ascoltatori invece forse vogliono intervenire su questioni più generali, come Maurizio da Latina. Buongiorno Maurizio, eccoci. Buongiorno a tutti. Una riflessione, premesso che come tutti sappiamo nel corso degli anni nelle varie leggi finanziarie sono stati fatti dei tagli anche nel settore della sanità, che via via ha perso anche tra le varie un numero di posti letto considerevoli nelle varie regioni, quindi questo ha portato a un depauperamento della quantità, non solo della qualità ma anche della quantità dell'offerta sanitaria. Visto e considerato che le regole del MES sembrano essere vincolate all'utilizzo dei fondi per spese mediche, o comunque inerenti alla sanità a un tasso dannatamente inferiore rispetto a quello di collocazione dei titoli di debito Stato, pubblico, la torniamo. Che non mi pare una cosa banale. E là torniamo, Maurizio, perché non prendere questi soldi, dice lei? Solo per recuperare il numero di posti letti persi. Io parlo del Lazio, sì, dove vivo, se non ricordo male sono stati persi tra i 2.500 e i 2.800 posti. Sì. Allora grazie Maurizio, no, il punto è chiarissimo, intanto abbiamo recuperato la nostra Maria Latella che si era persa nell'etere e ancora l'audio non è un granché, eh. Allora facciamo una cosa, mentre lo sistemiamo sentiamo anche Fabio da Milano, buongiorno Fabio. Sì, buongiorno. Prego. Dunque, guardi, io volevo dire due cose, sono primario ospedaliero di un grande ospedale pubblico di Milano. I due punti secondo me più importanti sono questi. Il primo è che non si può pensare di ritornare al livello di attività, parlo di attività ambulatoriale, che noi avevamo prima nei nostri ospedali, perché questo era ottenuto al prezzo di un overbooking pazzesco. Noi prenotavamo alla stessa ora 3 o 4 prestazioni ambulatoriali, parlo di visita ma anche di esami strumentali. E questo voleva dire sale di attesa affollate nel nostro ospedale. Nel mio ospedale i posti a sedere in sala di attesa sono circa 40-44, noi avevamo circa 150-160 pazienti più accompagnatori che in una mattinata si muovevano in ospedale. Questo non sarà più possibile, ma questo introduce un altro tema ancora più importante, che è quello dell'appropriatezza, perché bisogna avere il coraggio di dire che il 40% delle nostre prestazioni ambulatoriali erano inappropriate, non servivano, rispondevano a una domanda che induceva inappropriatezza. Un'ascoltatrice prima parlava della visita diabetologica della mamma di 93 anni, a un bravo diabetologo per valutare quella signora lì bastano una glicemia, una emoglobina glicata, una funzione renale, e questo può essere fatto per via telematica, per telefono, con la telemedicina, come abbiamo cercato di fare noi durante l'emergenza Covid. Questi sono due aspetti fondamentali, secondo me. Grazie Fabio, un punto mi pare importante. Maria, prego, così ti abbiamo ripescato. Tornerei da Angelo Tanese. Le chiedo, state facendo una programmazione per lo scenario dei prossimi mesi se dovesse esserci una nuova ondata di Covid-19? Come vi state preparando? Sì, assolutamente. Diciamo che anche i due interventi che ho ascoltato hanno detto cose profondamente giuste. Da un lato forse dobbiamo un pochettino ripensare il fatto che il nostro servizio sanitario in questi anni è un pochettino troppo all'osso. Io penso che la riduzione dei posti letto anche nel Lazio sia stata importante e utile, perché abbiamo recuperato efficienza, avevamo una rete ospedaliera che aveva bisogno di essere riorganizzata. Nello stesso tempo però penso, ed è quello che sta facendo anche il governo con questo finanziamento, che dobbiamo potenziare i posti letto di terapia intensiva e subintensiva e non essere, diciamo, troppo all'osso. Dall'altra parte la riprogrammazione significa riorientare i servizi nell'ottica dell'appropriatezza e della prossimità, nel senso che noi non abbiamo bisogno di trasformare sempre di più il servizio sanitario in un prestazionificio. Noi dobbiamo trasformarlo, e stiamo provando peraltro a volte anche a farlo, anche con buoni risultati, in un servizio che dà la risposta alle persone nel posto giusto, nel momento giusto, e quindi cercare di ridurre da un lato gli spostamenti, perché in questo momento lo dobbiamo fare in sicurezza con le tecnologie digitali, ma dall'altro anche avere dei percorsi di presa in carico che evitano alle persone di avere delle prestazioni che non servono. Non è, diciamo, un discorso così astratto, stiamo lavorando da tempo su questo, solo che in questi ultimi 3 mesi noi abbiamo fatto a volte in pochi giorni quello che non avremmo fatto in anni. Questo è bene ricordarlo, no? Il servizio sanitario in quel trimestre ha dato una risposta secondo me straordinaria anche nella nostra regione, ma dico dappertutto, e la capacità che abbiamo avuto di riorientare i nostri servizi, di gestire in maniera flessibile i posti letto. Ci sono degli ospedali, non solo i nostri ma anche in altre regioni, che nel giro di pochi giorni hanno triplicato l'offerta di posti letto. Fare questa cosa qui, le posso garantire, non è una cosa semplice, perché non è legata soltanto al personale, alle tecnologie, ma proprio alla gestione di quell'organizzazione. Ecco, io credo che questa dimensione manageriale e organizzativa della nostra sanità italiana sia sottovalutata, E quando si dice che arriveranno delle risorse per la sanità, che secondo me è fondamentale, bisogna pensare che bisogna spendere bene. Sì. Per spendere bene bisogna avere le idee chiare. Spenderebbe, mi scusi? Sì. Non so se mi sentite. Sì. Sì. Mi sentite? La sento, ti sento. Sì. Mi fa un esempio? Cioè, allora, un esempio di quello che non c'è e che dovrebbe esserci con la sua esperienza dei grandi ospedali romani. Se arrivassero i soldi del MES, per essere chiari, che vanno spesi sulla sanità, dove vanno spesi a Roma? Allora, le dico poche cose. La prima è potenziare tutta l'assistenza territoriale, che significa intanto ricordarsi di tutta la dimensione della prevenzione che è venuta fuori soltanto in queste settimane. Ci siamo ricordati, noi abbiamo messo in sorveglianza oltre 4.000 persone e le abbiamo gestite, questa cosa non ha fatto notizia, ma noi abbiamo ridotto moltissimo il contagio facendo un'operazione preventiva. Va fatta un'assistenza domiciliare a casa delle persone, anche con le tecnologie, che viene assolutamente potenziata. Negli ospedali abbiamo bisogno di introdurre flessibilità e quindi sicuramente anche avere una gestione dei posti letto e delle strutture, come abbiamo dimostrato, più ampia, quindi anche lì le tecnologie sono importanti. E poi c'è un investimento importante da fare comunque sul personale. Noi abbiamo, per effetto del blocco del turnover, avuto un'età media dei nostri operatori superiore ai 55-56 anni. Ecco, io credo che noi abbiamo bisogno di una grande iniezione, lo stiamo già facendo, di giovani preparati e un ricambio generazionale. Ecco, queste sono linee di investimento che però non vanno fatte in un'ottica, vuol dire così, di mero finanziamento, vanno fatte strettamente collegate a un ripensamento dei modelli organizzativi e nell'ottica quindi di una qualità, sì, del servizio e non soltanto di un potenziamento delle risorse. Ed è gaudioso, e poi vi salutiamo entrambi perché insomma siamo in chiusura di questa parte di trasmissione, ed è gaudioso, mi sembra, un punto sul quale mi sembra che concordiate voi, no? E allora uno può mettere dentro la sanità tutti i soldi che vuole, con il MES o senza il MES, però il tema è sempre quello: avere dei manager nelle direzioni sanitarie che sappiano spenderli, sappiano spenderli nel modo giusto e in Simone, modo oculato. Se posso, sì, dire, avere dei manager diversi da quella manager che, se non sbaglio, a Lecco qualche giorno fa è finita sotto inchiesta perché trafficava con prestazioni e prodotti che sarebbero dovuti andare al pubblico e che invece, secondo l'accusa, lei si rivendeva privato. Secondo l'accusa, quindi ancora, sì, non lo sappiamo l'accusa, ovviamente. È gaudioso, no, prego. Diciamo assolutamente sì, sono d'accordo con quello che diceva Angelo prima. Bisogna senza dubbio ripensare il modello. Quando dicevo prima pensando alle persone, pensando banalmente che abbiamo 11 milioni di italiani che vivono nelle cosiddette aree interne del paese, quindi i borghi, che non hanno una grande struttura ospedaliera a portata di mano. Per cui quelle persone lì bisogna riorganizzare i servizi, utilizzare le tecnologie, ma ad esempio utilizzare anche le persone che sul territorio ci sono, potenziare i medici di famiglia, i pediatri, e ad esempio trovare nuovi servizi da erogare nelle farmacie territoriali. È un modo per ripensare il modello di erogazione del servizio basandosi sui bisogni delle persone. E questo sicuramente è un tema. Aggiungo, su questa benedetta vicenda dei fondi MES, una cosa forse un po' paradossale e provocatoria. Guardate, se non abbiamo un piano è meglio non prenderli questi soldi, perché sono dei debiti che facciamo sui nostri figli. Lo dico provocatoriamente perché avere un piano vuol dire, ad esempio, concordare le linee strategiche anche tra i leader dei nostri partiti politici, perché non è che abbiamo una cosa tra 6 mesi, poi cambia il governo e si mettono in discussione le priorità, perché questo sarebbe un problema. Spendere male i soldi sarebbe veramente criminale in questo momento in cui ne abbiamo così bisogno. Oh, perfetto, abbiamo la persona giusta a cui girare anche questa riflessione. Esatto. Intanto grazie ad Angelo Tanese, direttore della ASL Roma 1, e Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanza Attiva. Saluto Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 Stelle. Buongiorno Crimi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Maria, prego. Buongiorno Crimi. Senta, ho grande curiosità, ma questi stati generali che Conte ha intenzione di convocare, si faranno, lei li considera utili, oppure è d'accordo con Pierluigi Castagnetti, un democristiano di vecchio stampo, buon amico del presidente Mattarella, che l'altro giorno ha fatto un tweet così: andate tutti in convento, tutto il Consiglio dei Ministri, uscitene con una bozza di piano senza bandierine dell'uno o dell'altro, poi parlatene in modo corretto con le opposizioni e con le categorie. subito, risparmiateci la menata degli stati generali, non c'è tempo da perdere. Come gli risponde Vito Crimi? Guardi, bisogna fare le cose bene. Il mio collega, quanto ha detto Gaudioso prima, non si può solamente dire prendiamo dei soldi per la sanità se non hai un piano. Quello che facciamo oggi, quello che progettiamo oggi per il futuro, non vale da qui a 6 mesi, 1 anno, ma vale da qui a 10 anni. È quello che sono le basi per capire verso dove va questo paese. E quindi dobbiamo decidere se vogliamo un paese che nell'ambito della sanità va verso privilegiare il privilegio di una sanità pubblica, di una sanità territoriale che arriva al periferia, o una sanità centralizzata con grandi poli. O per quanto riguarda l'energia, dobbiamo capire se vogliamo fare un paese di transizione verso l'abbandono graduale fino al definitivo delle fonti fossili o no. E allora bisogna fare gli investimenti, che non è solo l'auto elettrica, ma tutta l'infrastruttura che supporta questo. Vogliamo fare investimenti green, allora dobbiamo rivedere tutta la nostra edilizia e deve essere tutta incentivata in una direzione, ma questo lo facciamo non da qui a 1 anno. Quello che mettiamo, le basi che mettiamo adesso, segneranno il futuro dei nostri figli. E quindi dobbiamo farlo con molta attenzione. Io credo che questa idea degli stati generali è un punto di partenza fondamentale e urgente, per cui è il modo migliore per partire. Ovviamente servirà poi un ulteriore confronto e potranno esserci step successivi. Presidente, oggi ha bisogno comunque che tutti insieme si faccia un patto e si immagini il futuro di questo paese tutti insieme. Quanto devono durare questi stati generali? Perché da quel che abbiamo letto vi dividete col PD anche su questo, cioè Conte dice che devono durare 2-3 giorni, diciamo una rapida consultazione, il PD dice 2-3 settimane. Cosa deve essere? Una cosa breve, una riunione breve, no? Una sequenza di riunioni ravvicinata, essere un processo? Perché mi scusi Crimi, per chiarire, la questione dei tempi nasconde anche la visione politica sulla cosa, cioè è una riunione breve, una serie di incontri brevi per decidere cosa fare nell'immediato o qualcosa di più lungo termine? Allora io le dico, secondo me serve subito un incontro serrato che duri il tempo necessario di avere il quadro di quelle che sono le richieste, le istanze o le visioni di ciascuno per poter fare una sintesi, ed è da lì che parte un percorso. Poi ovviamente parte un percorso che può durare il tempo che deve durare. Io l'ho detto prima, non possiamo immaginare una cosa troppo di fretta, dobbiamo agire subito per mettere in chiaro almeno il percorso e quali sono le domande. Ecco, mettiamo così, questi stati generali devono darci immediatamente quali sono le grandi questioni da affrontare però su ogni tema, e da lì su quelle questioni decidiamo che strada percorrere. Ma una volta intrapresa quella strada, destra, sinistra, opposizioni, parti sociali, tutti la prendiamo insieme. È questo l'obiettivo. Quindi diciamo due tappe. Una prima tappa in cui si individuano gli obiettivi, e questo deve succedere molto rapidamente, e poi un piano che si sviluppa nel tempo dovuto, che deve dare anche alle forze politiche la possibilità di confrontarsi. Io vorrei fare anche confronto, un approfondimento anche con la mia forza politica. Ma insomma è quello che ha deciso di fare il ministro dell'economia francese, che ha detto il mio piano lo presento a settembre perché voglio tutto il tempo. È vero, però intanto hanno già capito dove vogliono andare, no? Esattamente quello che lei stava descrivendo. È la domanda che dobbiamo porci immediatamente, almeno capire dove vogliamo andare, se vogliamo andare verso un paese che va in una direzione. Oggi c'è un dibattito tra statalisti, non statalisti, si aprono anche questi dibattiti sui servizi pubblici, non servizi pubblici, col privato, non privato. Queste linee dobbiamo mettere insieme, le dobbiamo mettere insieme con le parti sociali e anche con le opposizioni, perché non si torni poi domani a rimettere mano a tutto, perché altrimenti sarebbe un disastro, appunto perché non è una prospettiva breve. Sì, però non le posso non obiettare, Crimi, che alcune grandi questioni sono già sul piatto, e su queste questioni bisognerebbe intervenire con una certa rapidità. Si è molto parlato della burocrazia, tanto per fare un esempio, si è parlato collegato a questo. Prego. Questo della burocrazia, secondo me, non dobbiamo metterlo in quel tema lì. Questo è la base su cui tutto il resto va costruito, per cui non credo che ci sia discussione. La ripartenza delle opere, delle opere, la revisione del codice appalti, questo è già programma ed è già, diciamo, in lavorazione. questa parte qui, come sapete abbiamo in ballo un decreto semplificazioni, perché non c'è investimento che funzioni se non semplifichiamo le procedure. Quindi gli stati generali servono, mi scusi Cremi, così cerco di capire anch'io, cerchiamo di capire tutti. Gli stati generali servono per i grandi temoni generali, cioè i grandi temoni di discussione. Per darci le prospettive da qui a 10 anni dove vogliamo portare questo paese, perché solo sapendo la direzione potremo investire i soldi nella direzione giusta perché non vadano sprecati. Maria, prego. Senta Crimi, per fare dei programmi sul lungo periodo i governi devono durare un lungo periodo. Come sa bene, da settimane almeno, da quando l'emergenza Covid si è un po' attenuata, è ripresa la tarantella su Conte sì, Conte no, c'è stata anche una voce messa in giro, chissà da chi, secondo cui Luigi Di Maio potrebbe pensare a un governo con tutti insieme e lui presidente del Consiglio. I commentatori si esercitano in varie ipotesi. I sondaggi dicono che se Conte facesse un partito arriverebbe al 14%, poi ci sono altri sondaggi che dicono che aumenta, come era inevitabile, insomma, una certa aspettativa per il governo che faccia le cose che ancora non le ha fatte. Ci dice una parola chiara su quello che il Movimento 5 Stelle pensa di Conte? Perché per alcuni cominciate a vederlo come un competitor, uno che vi vuole portare via i voti. Ma assolutamente mai visto come un competitor, e credo che oggi più che mai il Movimento 5 Stelle con il Presidente Conte lo sostiene in questo governo. Non ci sono dubbi su questo, tutte le anime del Movimento sono concordi con questa linea e questo io lo posso confermare con massima molta chiarezza, perché non ci sono dubbi in questo senso. Sono tante ricostruzioni, ma come lei stessa ha detto si esercitano. Ciascuno si esercita nella ricostruzione cercando di sperare che poi qualcuno ci azzecchi, perché poi alla fine funziona così, si sparano tante cartucce, tanto tutti dimenticano che le stesse cose sono state dette magari 2 anni fa, ugualmente, e non hanno avuto nessun seguito, poi magari qualcosa si avvera, allora qualcuno viene elevato come l'avevo previsto. In realtà è da 2 anni che si sparano tutte le cartucce possibili e si mettono in campo tutte le ipotesi possibili, basandosi su vecchi schemi però, sui soliti vecchi schemi, e quindi si basa sul modello Monti, quello che fece Monti, la sua lista, e andò come andò. Io credo che il Presidente Conte non è in quegli schemi, il Movimento 5 Stelle non è mai stato in quegli schemi, e quindi tutto quello che oggi si fa nelle ricostruzioni giornalistiche sono ricostruzioni basate su modelli vecchi, che non sono applicabili all'attuale situazione in cui siamo. Crimi, a proposito di economia, si fa un gran parlare, come ovvio che sia, del decreto rilancio e di come è stato composto, ossia si dice sono una serie di micro interventi a pioggia, tra l'altro saranno sottoposti a ampia modifica parlamentare se il numero di emendamenti resta quello che abbiamo visto, insomma siamo nell'ordine delle migliaia di emendamenti anche da parte della maggioranza. Sarebbe stato meglio attendere ancora un attimo e fare qualcosa di un po' più solido dal punto di vista dell'impianto generale? No, serviva subito una messa in sicurezza del paese e delle aziende. In questo decreto rilancio ci sono misure che entrano in vigore subito, misure che porteranno a giorni l'Agenzia delle Entrate a erogare direttamente alle imprese che rientrano nei parametri il contributo diretto a fondo perduto, ci sono le norme sugli affitti, c'è il super eco bonus, ci sono tante misure che andavano fatte immediatamente e dovevano essere il più presto possibile messe in atto. E le modifiche che saranno fatte in Parlamento non è che sono modifiche perché rivoluzioneranno il decreto rilancio, ma perché ci sono ulteriori risorse economiche disponibili che sono state lasciate proprio all'autonomia del Parlamento per poter scegliere anche dove indirizzare meglio alcune risorse, quindi se potenziare una misura piuttosto che un'altra. Quindi non è che il Parlamento stravolgerà l'impianto del decreto, il Parlamento lo aumenterà, cioè aumenterà la capacità di produrre liquidità, di distribuire liquidità del decreto rilancio con ulteriori misure. Maria. Di Battista torna e lo rivediamo in TV, nelle interviste. Nel frattempo gli stati generali vostri, quelli del Movimento 5 Stelle, sembrano diluirsi. C'è chi, come una delle fondatrici, no, del Movimento 5 Stelle, la Lombardi, consigliera regionale nel Lazio, dice il movimento potrebbe avere due teste, due leader, Di Maio e Di Battista. Lei, che è in questo momento alla guida del movimento, che ne pensa? Allora, proprio perché sono alla guida del movimento in questo momento mi rendo conto che il movimento non ha bisogno di una testa, due teste, ma il movimento ha bisogno di riscoprire idee più che leader. Il nostro movimento ha avuto questa capacità di saper mettere al centro le idee piuttosto che le persone, e questo viene fuori adesso ancora di più, a maggior ragione, vedendo come si stanno integrando un po' le varie anime del movimento. Alessandro è una grande risorsa e porta un entusiasmo e una capacità anche di visione. Di obiettivi di futuro e di identità è importante, ma allo stesso tempo Luigi Di Maio, ma potremmo citarne tanti altri, ognuno ha il suo portato e tutti insieme facciamo squadra. Solo facendo squadra possiamo raggiungere i risultati. L'abbiamo dimostrato con il reddito di cittadinanza, ci siamo messi con un carro armato dal primo giorno in cui siamo entrati in Parlamento nel 2013, alla fine ci siamo riusciti. È stato il nostro primo obiettivo appena siamo arrivati in Parlamento. L'abbiamo fatto tutti uniti. Quello che conta è l'idea. Ci siamo concentrati sull'idea, al di là delle persone, l'abbiamo portata avanti. In 10 secondi, Crimi, che stiamo veramente finendo il tempo. A proposito di squadra, c'è da fare qualche cambio nella squadra di governo o va bene così? Mi sembra che questa squadra di governo abbia gestito al meglio questa, a differenza di qualche magari consiglio regionale che è ancora nella bufera, abbia gestito al meglio questa emergenza. Dico al meglio, nel senso. Quindi niente cambi di squadra. Quindi niente cambi di squadra. No, non vedo perché ci debbano essere cambi di squadra, assolutamente. Grazie, Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 Stelle, buona giornata. Cara Maria, ci risentiamo domani alle 8:20. A domani, Simone, sperando ciao che i collegamenti, a tutti. Sperando che i collegamenti reggano. Lettere. È così. Con gli ascoltatori ci risentiamo domani alle 6:30, ciao.